Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, da oggi ci sono più ventilatori che pazienti in terapia intensiva, dice il commissario Arcuri, che poi assicura quello delle mascherine è un problema risolto. Conte annuncia entro questa settimana il piano per la fase 2, sarà nazionale ma con differenze territoriali, oggi l'informativa in Parlamento. Scuole e asili, il presidente del Piemonte Cirio rompe gli indugi, non possiamo non prevedere un servizio pubblico se i genitori torneranno a scuola. Kim Jong-un, mistero sulle condizioni di salute del leader nordcoreano, forse operato il 12 aprile, dice la Casa Bianca. Crollo storico del prezzo del petrolio, borse europee in rosso. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24, emergenza coronavirus, oggi alle 15 l'informativa alla Camera del Presidente del Consiglio Conte sulle misure di contrasto all'epidemia. Entro la fine di questa settimana, intanto, ha anticipato Conte su Facebook, ci sarà l'annuncio del piano per la fase 2, una fase 2 che sarà nazionale ma con alcune peculiarità territoriali. Iniziamo da qua. Un piano per la fase 2 entro la fine di questa settimana, lo ha annunciato il presidente del Consiglio Conte, ma già alcuni paletti nel lungo post su Facebook sono stati messi. Innanzitutto che dovrebbe essere applicato dal 4 maggio e che avrà un'impronta nazionale tenendo però conto delle peculiarità territoriali. Inoltre Conte sottolinea, non possiamo limitarci a pretendere da parte della singola impresa il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, dobbiamo valutare anche i flussi dei lavoratori e quindi le percentuali di chi usa mezzi pubblici, mezzi privati, in quali orari, con quale densità. Questo governo, ha spiegato Conte, ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all'obiettivo di preservare l'efficienza del sistema produttivo. Da una parte quindi le esigenze economiche, dall'altra un concetto ribadito, non possiamo abbandonare la linea della massima cautela. Il governo, dice Conte, prenderà decisioni sulla fase 2 nell'interesse dei cittadini del nord, del centro, del sud e delle isole. Non permetterò mai, sottolinea il Presidente del Consiglio, che si creino divisioni. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa la conferenza stampa del commissario straordinario Arcuri, quello delle mascherine, ha detto è un discorso che possiamo considerare concluso. Abbiamo 40 milioni di mascherine di scorta nei magazzini delle regioni. Poi Arcuri ha parlato anche a proposito della app Immuni, che ha detto sarà volontaria ma sarà comunque necessaria se vogliamo recuperare la nostra libertà di movimento. Alleggerire le misure di contenimento significa essere in condizioni di mappare i contatti delle persone che hanno recuperato una qualche forma di mobilità. L'alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice. Le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremmo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà. E veniamo all'andamento dell'epidemia in Italia. Cala per la prima volta il numero delle persone attualmente positive al coronavirus. Sentiamo. L'epidemia continua a rallentare, cala per la prima volta in Italia il numero dei positivi al coronavirus, 20 in meno in un giorno. Frenano i contagi anche nella regione più colpita, la Lombardia, con 737 casi in più, e cala il numero dei decessi in un giorno, ieri comunque 163. Intanto un bambino nato all'ospedale Beregardi a Aosta è risultato positivo all'infezione. La madre, residente nella cintura di Aosta, anche lei positiva, ha partorito con 38 di febbre. All'interno dell'ospedale è stata quindi riorganizzata la degenza nei reparti di ostetricia e pediatria. E per sfuggire ai controlli anti-coronavirus, una vettura con a bordo due giovani italiani che percorreva la statale Varesina ha disatteso l'ALT e investito i militari della Guardia di Finanza, trascinandoli sull'asfalto per alcuni metri. È accaduto domenica all'Urate Caccivio, in provincia di Como. Il conducente, rintracciato a casa, è stato arrestato per resistenza al pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni, danneggiamento, e sanzionato per aver violato le misure relative all'emergenza sanitaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non possiamo non pensare alle famiglie che, se tornano a lavorare, non sanno dove mettere i bambini. Questo è un dovere istituzionale e morale, lo dico anche da papà. Così oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha confermato ai microfoni di Radio Rai l'ipotesi allo studio della Regione di riaprire gli asili nido. Non possiamo pensare che ripartano le aziende senza che riparta un qualcosa di predisposto, ha detto Cirio, dalle regioni o dallo Stato. Tra le novità immaginate nella fase 2, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di agevolare gli acquisti nei negozi, c'è la possibilità di aperture scaglionate, aperture serali. Una ipotesi che però il presidente di Federmoda Renato Borghi al microfono di Maria Luisa Pezzali accoglie, ma con cautela. Sentiamo. Preferisco esprimere un'opinione, come dire, prudente, anche perché per il momento sono delle anticipazioni. Capisco che è un tema importante, perché che vadano in qualche modo variati i ritmi della città e quindi del lavoro complessivo, lo condivido, e quindi la variazione degli orari ci trova d'accordo. Se parliamo di orari serali, però, naturalmente esprimiamo molte riserve, sia perché dal punto di vista del conto economico costa molto, costa di più ovviamente tenere aperto la sera, sia per un motivo di sicurezza nei confronti dei nostri collaboratori, o meglio ancora delle nostre collaboratrici, perché molti dei dipendenti dei negozi di moda sono donne. Aspettiamo che ci sia una proposta ovviamente definitiva, pur riconoscendo questa necessità. Sulle aperture serali siamo molto perplessi e quindi aspettiamo, insomma, la formulazione definitiva della proposta. Nel pomeriggio dicevamo l'informativa di Giuseppe Conte sulle misure di contrasto al Covid in Italia, compreso il pacchetto di aiuti europei in vista del Consiglio europeo di giovedì, materia altamente divisiva all'interno della maggioranza. L'analisi di Daniele Biacchessi. È il giorno della resa dei conti all'interno della maggioranza e tra una parte del governo e un pezzo dell'opposizione sul pacchetto di aiuti europei in grado di rilanciare il nostro paese dopo l'emergenza Covid-19. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte giudica il MES strumento non necessario, ma la partita per gli eurobond è sempre più in salita. E un eventuale recovery fund finanziato con debito perpetuo con bond emessi dalla Commissione europea ha tempi assai più lunghi del MES. Così Conte ha rimandato oggi l'informativa in Senato e alla Camera, confidando in un ripensamento generale, ma la tregua, collega e Fratelli d'Italia, è ormai saltata da tempo e in aula potrebbe emergere anche il dissenso del 5 Stelle dopo le recenti posizioni di Alessandro Di Battista. L'attuale maggioranza retta dall'accordo tra PD e 5 Stelle rischia quindi la rottura. Conte dovrà mediare dentro e fuori della maggioranza, diminuendo il peso politico della fronda interna del 5 Stelle. Non è questione di lana caprina la partita sugli aiuti europei al nostro paese. In gioco c'è la nostra credibilità, è la prova della politica. E il ministro dell'Interno Lamorgese è oggi in Commissione Affari Costituzionali per aggiornare sugli aspetti di sicurezza per quanto riguarda per esempio la app Immuni, di cui abbiamo già parlato poco fa, l'app per il tracciamento dei contatti delle persone, ma anche per aggiornare sui controlli e le sanzioni effettuati in questo periodo. Sentiamo un passaggio dell'intervento di Lamorgese. Ad oggi su tutto il territorio nazionale sono state sottoposte a controllo circa 9 milioni di persone ed oltre 330.000 le violazioni contestate. Nella sola giornata di domenica sono state comminate 8.641 sanzioni amministrative, 74 denunce per falsa attestazione, 9 per violazione dell'obbligo della quarantena. Le verifiche sugli esercizi commerciali sono state circa 3 milioni e mezzo. E ora allarghiamo lo sguardo sull'epidemia a livello globale. Quasi 2 milioni e mezzo i contagiati al mondo. È il paese più coinvolto, restano gli Stati Uniti, la Spagna ha superato l'Italia. Sentiamo. Oltre 170.000 le persone uccise nel mondo dal coronavirus, i contagiati sfiorano quota 2 milioni e mezzo, calcola la Johns Hopkins University. In Germania il tradizionale festival della birra che si tiene in autunno, l'Oktoberfest, quest'anno non si farà. Lo ha annunciato il presidente della Baviera, la regione più colpita con oltre 38.000 contagi e 1.300 decessi. In Germania sono 4.600 le vittime in totale, più di 143.000 i casi. E mentre sia Francia che Spagna hanno superato i 20.000 morti, in Polonia, in una prima fase di allentamento, sono stati riaperti i parchi pubblici, mentre la Danimarca ha già riattivato le attività di dentisti, parrucchieri, persino le sale massaggio. Va peggio negli Stati Uniti, che subiscono altre quasi 1.500 vittime in un giorno, con il totale dei decessi che ormai supera i 42.000. Quasi 800.000 contagi, Trump plaude agli stati che provano a ripartire, annunciando insieme la sospensione temporanea dell'immigrazione negli States, per proteggerli, spiega il presidente americano, dal nemico invisibile, il coronavirus. E mentre Singapore accusa un nuovo boom di contagi, quasi 1.500 in 24 ore, Hong Kong annuncia il primo giorno con zero contagi. In Cina sono 11 nuovi casi, 4 dei quali importati, e nessuna nuova vittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in gravi condizioni di salute dopo un intervento avvenuto il 12 aprile. Lo fanno sapere gli Stati Uniti, le cui forze di intelligence stanno monitorando alcune informazioni in merito alla salute di Kim. Sarebbe peggiorata negli ultimi mesi e il 12 aprile avrebbe subito un intervento chirurgico. Da diversi giorni non appare più in pubblico. Crolli vertiginosi nel prezzo del petrolio, in alcuni casi addirittura azzerandosi, e anche le borse ne risentono negativamente. Il barile di petrolio americano cerca di recuperare e torna intorno a quota zero dopo la debacle storica di ieri, quando è sceso in territorio negativo, meno 37 dollari, valore non del greggio in sé, ma del contratto future relativo al mese di maggio. Il WTI scadenza giugno ha chiuso infatti a 20 dollari e il Brent a 26. Il crollo di ieri è legato alle vendite da parte di un fondo, ci spiega Massimo Nicolazzi, docente di economia delle fonti energetiche all'Università di Torino. C'è un grande fondo negli Stati Uniti, US Oil Fund, che tiene in mano un 25% di tutti i futures che girano intorno al petrolio WTI americano e che ha svenduto un 20% del suo portafoglio per aggiornarlo a date successive. Una manovra che, insieme al calo di un terzo della domanda per la pandemia di coronavirus, le dispute sui tagli tra i paesi produttori e la saturazione delle riserve strategiche hanno innescato una tempesta perfetta. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani le celebrazioni per la 50ª giornata mondiale della Terra, con una serie di collegamenti e una maratona online. Sentiamo. Da 50 anni, ogni 22 aprile, ossia un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, le Nazioni Unite celebrano la Giornata Internazionale della Terra. Un appuntamento voluto per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali del pianeta, nato dopo il disastro ambientale avvenuto nel 1969 in California. Quell'anno, al largo di Santa Barbara, si riversarono in mare dagli 80 ai 100.000 barili di greggio. L'anno dopo, il 22 aprile del 1970, 20 milioni di cittadini americani, incitati dal senatore democratico Gaylord Nelson, decisero di mobilitarsi con una storica manifestazione in difesa del pianeta. Da allora l'appuntamento è diventato annuale e viene celebrato in 193 paesi del mondo. Ma quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus e delle eccezionali misure di distanziamento sociale, non ci sarà nessuna mobilitazione fisica di milioni di persone, bensì una maratona digitale di 24 ore che collegherà virtualmente ogni parte del pianeta. Tema di questa edizione 2020, la lotta al cambiamento climatico, una sfida resa ancora più pressante anche dalla pandemia in corso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non do per certa né la ripresa del campionato né degli allenamenti il 4 maggio. Così il ministro dello sport Spadafora, alla vigilia della riunione di oggi dei ministri dello sport europei e anche dell'assemblea della Lega di Serie A, che invece sembra intenzionata a tornare presto in campo e a concludere il campionato appunto di Serie A. 13 minuti nella seconda parte di Effetto Giorno, parleremo dello studio francese sul primo focolaio di coronavirus in Alta Savoia, dal quale risulterebbe che i bambini sono poco o per niente contagiosi, dati che sembrano confermati anche da altri epidemiologi francesi, e così la Francia si avvia a riaprire le scuole. Ma dopo la pausa per il traffico torneremo con i test sierologici, con il caso di Ortisei in Alto Adige, dove quasi metà della popolazione è risultata positiva, quindi dati quasi da immunità di gregge. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, emergenza coronavirus, ci sono più ventilatori che pazienti in terapia intensiva, dice il commissario Arcuri, che poi assicura quello delle mascherine è un problema risolto. Conte annuncia entro questa settimana il piano per la fase 2, sarà nazionale ma con differenze territoriali, e oggi l'informativa in Parlamento. Crollo storico del prezzo del petrolio, borse europee in rosso. Kim Jong-un, mistero sulle condizioni di salute del leader nordcoreano, forse operato il 12 aprile, dice la Casa Bianca. Test sierologici, primi risultati, il caso di Ortisei in Alto Adige, quasi metà della popolazione è risultata positiva. Minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Adesso una storia, vi vogliamo raccontare una storia, quella del dottor Simon Kostner, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Benvenuto. Benvenuti a voi. Grazie per essere con noi, Kostner, un medico di Ortisei in Alto Adige, che si è infettato un mese fa, è stato ricoverato. Adesso si è fatto il test degli anticorpi e ha gli anticorpi, quindi si dice immunizzato, e intanto è stato chiamato inizialmente dall'hotel Adler per fare dei test sierologici sui dipendenti dell'hotel. Poi la possibilità è stata estesa anche ai cittadini, ne hanno fatti 500 di questi test e i risultati sono abbastanza interessanti. Dottor Kostner, intanto lei come sta? Io sto bene, grazie. Lei ha fatto il virus quanto tempo fa? Più di un mese fa già, 6 settimane fa. Sono stato ricoverato 3 settimane. E com'è andata? È stata dura? È andata bene, no, ho solo avuto bisogno di ossigeno e non di ventilazione meccanica, e ho avuto grande fortuna. Bene, bene naturalmente per lei. Senta, dottor Kostner, da quando ha iniziato a fare questi test? Quanti ne ha fatti esattamente? Ma con oggi ne abbiamo fatto 570, siamo a 570 test, e la gran sorpresa è che la metà di quelli che si sono spontaneamente presentati, no? Perché non li abbiamo scelti noi, e quindi però non pensiamo che vengano solo quelli che ce l'hanno avuto. Anzi, vengono tutti quelli che vorrebbero averlo avuto, anche se non hanno avuto nessun sintomo. Ecco. Sì, perché vorrebbero scoprirsi immuni, diciamo. Questa, ecco, sono 500 cittadini che si sono presentati spontaneamente, anche perché devono pagare loro il test per 30 euro, che però è solo il prezzo di acquisto, però lo fanno tutto volentieri, e niente, la metà di questi 570, che di un paese di 5.000 abitanti, sì. Niente, la metà sono risultati. Alla metà, siamo allora, al 49% positivi agli anticorpi, quindi... Quali anticorpi, cioè, dottor Costa? IgG, quindi hanno avuto contatto o si sono ammalati di virus, perché circa un terzo ha avuto dei sintomi importanti, un terzo leggeri, un terzo non ha avuto sintomo. Senta, ma lei ha testato anche IgM, cioè la presenza attualmente? Sì, anche IgM, sono pochi. Quindi è proprio un episodio che è alle spalle, cioè questa mappatura sua, se corretta, direbbe che alle spalle, a Ortisei, il 10% della popolazione ha un contagio importante, metà della popolazione testata col coronavirus, adesso non ci sono più sintomi, non ci sono più IgM, quindi non c'è presenza, non dovrebbe esserci presenza, ma ci sono gli anticorpi IgG che dovrebbero, speriamo, essere protettivi. Insomma, è un dato abbastanza importante. Lei se l'aspettava una cosa del genere, però, cioè vivendo a Ortisei? Sì, nessuna popolazione, cioè è stato fatto un test del genere, no? E noi in Val Gardena abbiamo il turismo dello sci a febbraio, sì. Ed è scoppiata l'epidemia alla fine di febbraio, ma è proprio scoppiata che ci siamo poi accorti dopo un certo periodo, che pensavamo fosse un altro virus, una influenza, qualcosa, ci eravamo accorti che doveva essere il coronavirus, il che poi ha portato addirittura alla chiusura anticipata all'ordinanza del Ministero di tutti gli impianti e gli alberghi, perché si vedeva che tutti si infettavano ed era una strage, ecco, no? Una strage nel senso che erano tutti ammalati, poi ci sono stati anche i malati gravi, ci sono stati purtroppo i vecchi, qualche morto in più, sì. Però noi possiamo vedere che questo valore è più che plausibile, perché è infettato tutto il paese. Senta, ma con questi dati, con questo livello di immunità, ammettiamo che i test siano corretti, non ci siano falsi positivi, ammettiamo che questo campione del 10% sia rappresentativo di tutta Ortisei, un piccolo comune con una metà della popolazione già contagiata, positiva. Questo è un dato, lei è un medico, non è un epidemiologo, però ci arriviamo tutti a capirlo che è quasi da immunità di gregge. Sì, infatti, perché ci sono certi virus dove l'immunità di gregge deve essere l'80% di immunizzati, invece col coronavirus mi sembra che gli esperti dicano che l'immunità di gregge si raggiunge già al 60%, quindi saremmo già vicini, ecco, sarebbe una bella cosa. Staremo a vedere, dottor Costner. Intanto grazie per essere stato con noi, complimenti anche comunque per questa iniziativa di mappatura che naturalmente andrà poi verificata, specificata, si tratta di test che probabilmente non sarebbero ancora validati all'Istituto Superiore di Sanità, perché poi ogni regione sta procedendo con i kit che ha a disposizione, tutto quello che volete, ma più informazioni abbiamo, capite? Più ne sappiamo e più possiamo affrontare questa benedetta fase 2. E a proposito di fase 2, riprendiamo uno degli aspetti che riguardano l'andamento economico di un settore fermo dal 22 marzo, cioè da quando c'è stato lo stop alle attività, il grande stop alle attività industriali, quello dei cantieri edili, delle costruzioni, a parte aspetti legati alla sanità, cantieri di sanità o di grandi opere come il Ponte Morandi, l'edilizia è ferma appunto da un mese circa. Qual è la possibilità di ripartire, in quali condizioni? Alessandro Arona ne ha parlato con Luigi Colombo, amministratore delegato della Colombo Costruzioni di Lecco, tra le principali imprese in Italia attiva nei cantieri privati Milano, Bologna ma anche Roma. Il rischio su un'edilizia civile, che sia pubblica o privata, in una costruzione, il rischio c'è. Esistono contromisure con dispositivi di protezione o no? Infatti è stato emanato un protocollo per la sicurezza dall'ANCE, dall'Associazione Nazionale Costruttori, naturalmente discusso con i sindacati. Primi, per capirci, un controllo degli accessi. Noi abbiamo previsto la misurazione delle temperature di tutti gli operatori che vanno in cantiere, ma non solo sul cantiere, ma anche negli uffici. Ci sono poi da predisporre tutta una serie di nuove superfici per gli spogliatoi, le mense, i servizi igienici. Le persone che arrivano devono avere più spazi e quindi naturalmente questo va previsto con degli spazi maggiori e con delle turnazioni che scaglionate e probabilmente con anche un programma di lavorazione un pochettino più lungo. Poi naturalmente sono previsti tutti i dispositivi di sicurezza, le mascherine, i guanti, gli occhiali quando servono, le tute se necessita. Le mascherine si trovano? Francamente siamo riusciti a procurarle nelle ultime due settimane, Cioè prima non erano assolutamente introvabili. Siete convinti che l'edilizia ripartirà completamente il 4 maggio? Questa è una bella domanda. Noi per il giorno 4 siamo pronti a ripartire. Mm-hmm. -13:25 Manteniamo fede all'impegno preso dall'inizio di questa settimana, cioè da ieri, di raccontare ogni giorno almeno una storia positiva, chiamatela così, una storia costruttiva all'interno di questa tragedia, di questa crisi dell'epidemia di coronavirus, sia perché abbiamo sicuramente bisogno di fiducia, di credere in qualcosa, no? Di iniezioni di positività, di ottimismo, non per metterci fette di prosciutto sugli occhi e non vedere i problemi da superare che ci sono e sono tanti, ma perché dobbiamo aggrapparci a qualcosa per costruire questa ripartenza, questa convivenza con il virus in questa, che possiamo chiamarla fase 2, ma insomma è già la fase attuale. È con noi Manuela Massarotti, responsabile della RSA Domus Patrizia di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È responsabile in sostanza di una casa di cura a Milano, nel centro di Milano. Casa di riposo, casa di riposo. Casa di riposo. Sì, giusto, ha ragione. Esatto, nel centro si di Milano. Si fa confusione anche dal punto di vista terminologico, ma è giusto specificare. Casa di riposo. Sì. Allora, un caso, in questo caso, positivo, chiamiamolo così, virtuoso. Adesso lei ci racconterà, io però vi spiego i dettagli. Un caso, cioè vi anticipo di cosa stiamo parlando. Un caso nel quale, prendendo tutta una serie di misure che poi sono state adottate da tutti, insomma, si è contenuto il contagio, si è evitato che delle persone si ammalassero. Fino a qualche giorno fa so che era andato tutto bene, dottoressa Massarotti, mi conferma che anche adesso non ci sono casi? Anche ad oggi, 21 aprile, va tutto bene, molto, non c'è nessun caso Covid, siamo tutti bene, in salute. Allora, sì. Capite che è un caso che va in controtendenza rispetto a quello che è il racconto che abbiamo sentito sin qua, che non so se sarà detto, potrà essere confermato che è stato maggioritario o non maggioritario, ma insomma avete capito, contagi, vittime, addirittura indicazioni di non indossare le mascherine all'interno del Trivulzio, sembra che sia stato anche questo. Ho sentito inchieste. Che della magistratura che accerteranno eventuali responsabilità. Con lei vorrei ripercorrere brevemente, il 21 febbraio si scopre che in Italia ci sono dei focolai di coronavirus in Lombardia, lei inizia a muoversi, che cosa fa? Allora, dopo aver letto anch'io, come tutti gli italiani, del caso di Codogno, mi sono chiaramente preoccupata e ho pensato come poter fare per tutelare i miei anziani ospiti della Domus Patrizia. In quel momento l'unica cosa che mi è venuta in mente era blindare la mia struttura e così ho fatto. Con il 23 febbraio ho arrivato in Domus, ho chiuso tutte le entrate, quindi non ho più permesso a nessun parente di entrare in struttura per venire a trovare i loro cari, né nessun parente, né nessuna badante, neanche nessun fornitore, ho chiuso proprio l'entrata a tutti. Due a giorni dopo ha chiuso completamente il tutto. Il 23 febbraio, l'indicazione, io ho chiuso completamente la struttura. L'indicazione poi è arrivata anche dalla Regione Lombardia, ma anche nelle altre regioni, credo che fosse addirittura un'indicazione del DPCM dell'8 marzo, giusto? Sì. Il 7 marzo, per l'esattezza, è arrivata l'indicazione di non far entrare più le persone in struttura. Quindi lei sì, l'ha anticipato preventivamente il 23 febbraio. Quasi sì. due settimane sì, prima. Sì, sì. E ho anche vietato, a dire la verità, ai miei ospiti, perché io ho anche alcuni ospiti lucidi, autosufficienti, di uscire, proprio perché alcuni uscivano per andare a farsi un giro strada piuttosto che per viste mediche o quant'altro, e ho vietato anche loro di uscire. Come nessuno poteva entrare, chiaramente nessuno poteva uscire. Ho iniziato così, questo è stato per temporeggiare, per vedere cosa sarebbe successo, perché nessuno sapeva poi cosa certo. sarebbe successo, chiaramente. Poi è arrivata la famosa direttiva di ospitare qualche giorno dopo i pazienti Covid, perché sì. la regione Lombardia... L'8 marzo, sì. una bella DGR, sì, dell'8 marzo. Faccio solo sì. una piccola premessa, perché per chiarezza, Gallera l'altra sera domanda ha risposto, ha detto eravamo praticamente nel panico, nel senso che non sapevamo più dove mettere i pazienti che uscivano dalle terapie intensive, bisognava velocemente lasciare posto ai nuovi pazienti, quindi tra le varie cose che sono state pensate è stata pensata anche questa, che però poi si è rivelato essere un errore, forse un errore molto grossolano. Un errore molto grande, sì. Anche lei ha ricevuto questa richiesta? Certamente sì, chiaramente sì, io faccio parte di tutte le RSA che hanno ricevuto le richieste, direi nelle due settimane centrali di marzo, quindi da dopo uscita la DGR che è uscita l'8 marzo, abbiamo ricevute svariate telefonate al giorno dalla regione crisi, dal reparto crisi della regione Lombardia, per ricevere Covid-19 all'interno della nostra struttura. Devo dire che in questo caso forte dal mio direttore sanitario, la dottoressa Reggia, che si è assolutamente opposta nel ricoverare, nell'accettare questi Covid-19, ma non per non mancanza nel voler aiutare gli ospedali, ci mancherebbe altro, ma perché sarebbe stata una tragedia annunciata. È chiaro che se io ricovero nella mia struttura dove ho pazienti fragili, super fragili, anche ultracentenari con varie patologie dei Covid, nel giro di una settimana avrei avuto una strage. Ma lei per quanti giorni ha continuato a ricevere questo invito ad ospitare pazienti Covid? Fino a che giorno, se lo ricorda? Direi che è andata avanti una decina di giorni, adesso non mi faccio dire le date precise, ma quindi oltre la metà di marzo, attorno alla metà di poco sì, dopo la metà di marzo. Sì, un bel po' di giorni, più volte al giorno, più telefonate al giorno abbiamo ricevuto. Senta, ma alla luce, appunto, col senno di poi, alla luce anche della sua valutazione, che però lei ha fatto subito, immediatamente, lei come definirebbe questa richiesta? Un errore molto grossolano? Guarda, non mi faccia dire cose che non vorrei dire. Chiaramente trovo assurdo che una struttura come la nostra, un RSA con più fragili, ne possa accogliere Covid. Secondo me è totalmente incompatibile la richiesta con la nostra tipologia di struttura. Senta, poi so che nel frattempo, però questa credo che sia stata una decisione volontaria, alcuni operatori, come è accaduto anche in altre case di riposo, devo dire, si sono chiusi dentro per evitare di portare dentro, con la loro vita da fuori, diciamo, scusate il gioco di parole, il contagio agli ospiti. È successo anche da voi, giusto? È successo anche a noi, sì. Ho parlato con la cooperativa Virtus, che è la cooperativa che ha in appalto la parte sanitaria con gli operatori sanitari della mia struttura da Mostacrizia, l'ho invitato a parlare con i suoi dipendenti e 16 angeli si sono offerti in maniera volontaria per rimanere all'interno della struttura e quindi sono qua dal 30 di marzo e rimarranno fino al 3 di maggio. E più di un mese e tanta roba, veramente tanta roba. Sono bravissimi, lavorano in continuazione, sto con loro di tutto, di alzare gli ospiti, lavarli, dargli da mangiare, intrattenerli, fargli fare animazione, e devo dire che si è creato un clima molto molto bello con questi operatori, con gli ospiti e anche con i parenti, perché abbiamo istituito un gruppo WhatsApp con i parenti in cui tutti i giorni le teniamo aggiornati. Informati. Dottoressa Massarotti, l'ultima cosa in 30 secondi, flash, lei è andato, però è andato tutto bene, facciamo gli scongiuri, complimenti per il lavoro che ha fatto, la tempestività con cui ha preso queste decisioni. Lei si sente la mosca bianca oppure avrà parlato con degli altri colleghi, con delle altre realtà simili? In tanti hanno avuto questa reazione, perché effettivamente dalla cronaca che è emersa poi in questi giorni sembra che invece in tanti posti sono fatti errori, il contrario di quello che avete fatto voi sostanzialmente. Sì, non saprei dire perché, ma in molti posti sono stati questi errori, forse perché noi siamo una struttura a condizione familiare, questo ci ha aiutato e agevolato nel prendere le decisioni in maniera molto più veloce. Non siamo proprietari e sono anche la responsabile, quindi capisce che da noi è tutto più immediato, io sono presente in struttura tutti i giorni, quindi forse le decisioni nel mio caso sono state più immediate, più facili da prendere rispetto a grandi strutture. Grazie, grazie. Grazie a lei, la ringrazio e buona giornata a tutti, grazie mille. La responsabile della casa di riposo Domus Patrizia di Milano, avete sentito la storia, 349-238-6666, se volete commentare questa e altre notizie di oggi ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Torniamo tra poco e ripartiremo, come anticipato, da questo studio fatto in Francia, sul primo focolaio di coronavirus in quel paese, che dimostrerebbe che i bambini sono scarsamente, poco per niente, contagiosi. Da qui poi anche la decisione della Francia di riaprire le scuole. Tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza coronavirus, ci sono più ventilatori che pazienti in terapia intensiva, dice il commissario Arcuri, che poi assicura quello delle mascherine è un problema risolto, ne abbiamo 40 milioni di scorta nelle regioni. Conte annuncia entro questa settimana il piano per la fase 2, sarà nazionale ma con differenze territoriali, e oggi l'informativa del Presidente del Consiglio in Parlamento. Scuole e asili, presidente del Piemonte Cirio rompe gli indugi. Non possiamo non prevedere un servizio pubblico se i genitori dovranno tornare al lavoro. Kim Jong-un, mistero sulle condizioni di salute del leader nordcoreano, forse operato il 12 aprile, dice la Casa Bianca. Francia, bambini poco contagiosi, lo indicano i dati epidemiologici e uno studio sul primo focolaio in Alta Savoia, e così Macron riapre le scuole. Minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Vediamo messaggi anche appunto sulla pagina. Perché l'Italia non fa come a Ortisei invece di obbligarci a scaricare un'app che viola la nostra privacy, si domanda Patrizia. Le due cose non sono in contraddizione, a quel che mi sembra di capire, Patrizia, perché intanto fare un test su metà della popolazione o un campione importante, scusate, il 10% della popolazione, il campione di Ortisei, per l'Italia vorrebbe dire 6 milioni di test. I test inizieranno, se ho capito bene, dai primi di maggio, quando ci sarà la risposta al bando pubblicato dal commissario Arcuri per avere un test validato scientificamente, quindi lo faremo il test, ma non diciamo con quei numeri, perché i kit sono 150.000 i kit previsti dal governo, quindi sarà un test a campione sull'Italia, poi vedremo se ci darà indicazioni come è accaduto a Ortisei. Poi ci sono messaggi anche sul discorso delle mascherine, scrive Michele, il problema della disponibilità di mascherine e di altri dispositivi di protezione non si può limitare alle scorte regionali per la sanità, ma deve tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori, delle imprese, dell'attività economica. Una stima realistica del fabbisogno indica in 10 milioni di mascherine al giorno, dice Michele. Non mi è chiaro, aggiunge, se il signor Arcuri è in grado di garantire tale disponibilità. Caro Michele, è quello che abbiamo pensato tutti quando è uscita questa dichiarazione sull'ANSA di Arcuri. Io non ho ascoltato in diretta la conferenza stampa di Arcuri. Sono d'accordo con lei, il punto non è, come lui ha detto, che abbiamo 40 milioni di mascherine di scorta. A noi ci interessa sapere il flusso di produzione quotidiano, settimanale o mensile, perché sappiamo che siamo 60 milioni, le dovremmo usare più o meno tutti. Non mi pare che ci siano eccezioni. Le mascherine non è che si possono usare senza mai buttarle via, soprattutto chi le deve usare per una vera protezione, quindi fate voi il conto. Va bene, è il momento del punto, quindi vedremo questa dichiarazione di Arcuri, spero che abbia un seguito, perché altrimenti mi sembra una dichiarazione, diciamo, poco rassicurante da questo punto di vista. È il momento del punto, del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La corsa al prestito fino a 25.000 euro garantiti al 100% dallo Stato è cominciata. E il primo giorno il risultato è stato questo, così come emerge da una prima indagine sul campo fatta da Sole 24 Ore. Oltre 20.000 domande, di cui 500 inoltrate al fondo di garanzia, che è poi il passaggio necessario per la liquidazione della somma. Il governo aveva descritto questa misura come un modo per dare soldi in 24 ore o poco più alla fascia più debole delle imprese, che poi è quella delle partite IVA. Ma la documentazione abbinata alle richieste di quel prestito, che va sempre ricordato, è legato al tetto di un quarto dell'ultimo fatturato e può diventare di 25.000 euro solo se i ricavi sono stati di almeno 100.000 euro, bene, quella documentazione prevede adempimenti con almeno 19 documenti, DURC, DURF, pendenze fiscali eventuali, bilancio provvisorio al 31-12-2019, piani di ammortamento in essere e moratorie già autorizzate. Bene, una diga burocratica che rischia di produrre più frustrazione e disillusione che efficienza. Soprattutto per le PMI, che va ricordato, subiscono già un peso burocratico di almeno 7 milioni pro capite, che sono poi 31 miliardi complessivi. Quei 25.000 euro sono stati accreditati quasi come una regalia, ma invece, visti al primo giorno, mantengono il volto arcigno che ha normalmente il denaro prestato. È con noi Elio Castagnola, responsabile dell'unità malattie infettive all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie per essere con noi, professor Castagnola. Allora, vogliamo parlare con lei della questione dei bambini, per fare un po' il punto su quello che sappiamo. Partiamo da un dato: la Francia ha annunciato che riaprirà le scuole l'11 maggio e forse ha delle basi scientifiche, delle basi solide per farlo, perché c'è uno studio, ci sarebbe uno studio, io non ho visto lo studio originale ma è stato riportato dalla stampa, sul focolaio, il primo in Alta Savoia, che indicherebbe che i bambini coinvolti, o forse addirittura il bambino coinvolto, non è stato assolutamente in grado di contagiare nessuno. C'è poi un altro dato che è stato fornito dal presidente del consiglio scientifico Covid in Francia, che a differenza dell'Italia ha un nome e cognome, esiste un presidente, il nostro comitato invece diciamo non ha un titolare a comunicare, ma insomma si chiama Jean-François Delfrassy, che ha detto nessuna scuola francese è stata un focolaio di epidemia. Partendo da questo si può fare già un ragionamento per quanto riguarda la Francia. Io le chiedo, visto che da noi si è sempre detto che i bambini sono quasi sempre asintomatici ma potevano essere veicoli pesanti del contagio, sta cambiando qualcosa nella conoscenza della malattia? Lei che cosa ne pensa di queste notizie che vengono dalla Francia? Allora, purtroppo secondo me sta cambiando poco e stiamo basando, perlomeno per quella che è la mia conoscenza a un'ora fa, tutto su un singolo paziente, che è questo bambino francese che si è contagiato nel focolaio dell'Alta Savoia, se ricordate, di quel paziente che arrivava, se non mi sbaglio, da Hong Kong. Sì, da Singapore, da Singapore, da Hong Kong, comunque sì. Dall'Oriente, con l'inglese che ne ha infettato una decina, una quindicina, con dentro un singolo paziente pediatrico che è stato seguito, è stato analizzato, per carità, però adesso basare tutta una strategia di riapertura delle scuole su un singolo paziente, francamente le dico, mi sembra un attimino, posso dire, avventato, e dico avventato. Assolutamente. Con tutto, anche perché i colleghi francesi che hanno, ho letto l'articolo, che hanno studiato questo paziente, fanno tutta una serie di supposizioni che hanno basi scientifiche sul perché il bambino potrebbe non aver infettato altre persone, non ultima e forse la più importante in questo caso, la presenza dello stesso paziente di altre infezioni virali. Il paziente aveva tre virus addosso contemporaneamente, cosa che nei bambini succede abbastanza frequentemente, sì. E i virus tra di loro si interferiscono, per cui potrebbe anche essere stato un fenomeno, quello che si chiama interferenza virale, per cui un virus impedisce la trasmissione dell'altro. Ma ora, a questo punto No, è evidente che diciamo, la sua premessa è evidente, basarsi su un unico caso è chiaro che non è sufficiente, non può essere sufficiente. Ci sono, a dire la verità, appunto la dichiarazione del Presidente del Consiglio Scientifico che dice le scuole non sono state dei focolai in Francia, c'è un'altra dichiarazione della dottoressa Isabelle Godelou, pneumopediatra dell'ospedale Necker di Parigi, che ha detto i test positivi sui bambini in Francia sono un numero molto molto minore rispetto agli adulti. È un dato che collima con quello dell'ISS in Italia, anche noi abbiamo pochissimi. Il fatto che i bambini, adesso però i dati sono molti, professore, questo che forse può essere già un'altra domanda, perché abbiamo tanti dati, quindi perché uno inizialmente poteva pensare i bambini sono pochi positivi perché abbiamo tamponato soprattutto gli anziani ammalati con sintomi, però adesso abbiamo superato il milione. Ci sono dati anche di uno studio cinese con 44.000 casi. È possibile che i bambini complessivamente siano comunque poco toccati, anche in maniera non asintomatica, ma non essendo proprio toccati dalla malattia? Sono dati attendibili? È possibile che non siano. Allora, che siano toccati meno è possibile. Tenga presente che anche i dati cinesi fin dall'inizio ci dicevano questa bassa incidenza in età pediatrica. Le posso anche aggiungere che per quella che è la nostra esperienza a Genova, ma che coincide molto con quella dei colleghi e quella riportata in letteratura, nella stragrande maggioranza questi pazienti, questi bambini avevano un caso riconoscibile, un contatto riconoscibile, la stragrande maggioranza aveva, parlo di quelli che abbiamo visto noi, un genitore, un nonno, comunque una persona adulta che stava male prima di loro e dalla quale quindi sono rimasti infettati. Quindi direi quasi che è accaduto al contrario, noi abbiamo avuto è un po', posso dirlo ancora, la paura che il bambino possa essere un super infettatore, mi passi questo neologismo, e invece il bambino fino ad oggi abbiamo visto che è stato infettato di più dall'adulto. La paura che il bambino possa fare da persona che infetta molto è perché sappiamo per altre infezioni, per esempio l'influenza, che il bambino anche con pochi sintomi elimina moltissimo virus e quindi in questo senso può essere un soggetto che ne infetta molti. Ma in che modo il bambino con l'influenza normale con pochi sintomi elimina, come dite voi, moltissimo virus? In che modalità lo elimina? Ecco, esattamente come lo eliminano con gli altri modi, con la tosse, con starnuto, con le vie respiratorie. Cioè, la però, via di trasmissione però, è la stessa, sì. Ne ha molta di più, elimina molto più virus dell'adulto. Però nel caso del coronavirus, del se coronavirus i sintomi non ci sono... Apparentemente non è così. Però il dato sempre pediatrico è che siamo intorno a un 15% di bambini sì. asintomatici trovati perché, come dire, analizzati all'interno di cluster identificati, che erano asintomatici eliminatori del virus. Numero di asintomatici, sempre stando agli attuali dati, che è superiore come percentuale a quello degli adulti. Senta, scusi professore, perché rischiamo poi di addentrarci, oltre che il tempo a disposizione, così i tecnicismi. Le chiedo veramente in un flash a questo punto se sulla base di quello che è la sua conoscenza al momento, la sua idea anche personale, se lei riaprirebbe o no le scuole adesso o le riaprirebbe a settembre. Io riaprirei a settembre. Va bene, grazie. Se basta. Grazie professor Castagnola per essere stato con noi del Gaslini di Genova. È un argomento naturalmente su cui chiaramente torneremo. E torneremo anche a chiederci se questo benedetto campionato di calcio si chiuderà, non si chiuderà, quando. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Frenata del governo ieri attraverso i ministri, Spadafora, Speranza e tutta la compagnia, mondo del calcio che rimane spaccato. Oggi ne parleremo con un ex grande giocatore, ora allenatore Catania, cioè Cristiano Lucarelli, il bomber di Livorno. Ne parleremo anche con un altro livornese che è Walter De Raffaele, allenatore campione d'Italia in carica e uscente con la Rayer Venezia. Tutto questo prima del Bar Tour con Bartoletti e Turrini. Alessio. Due livornesi, ma vi voglio bene lo stesso. Per te Pisano, Pisa, certo. Ma puoi partecipare. Vi ascolterò. Senti, perché oggi c'è anche una riunione di Lega, tra l'altro, di Lega di Serie A, però non uscirà niente, immagino. Immagino anch'io, insomma, però guardiamo all'estero, dove la Germania in maniera molto compatta si prepara a riprendere il 9 di maggio la riunione dei Länder tedeschi. Perfino in Spagna, dove si è molto litigiosi, quasi come in Italia, si è trovata una pax grazie al ministro Lozano, per cui si va verso, anche lì in maniera abbastanza compatta, riprese degli allenamenti e della stagione più in là, verso il 6 di giugno. In Italia invece ancora tutto molto molto fumoso. Vediamo. Grazie Carlo, ti ritroviamo con tutti i convocati naturalmente dopo il giro delle 14. Traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto giorno. Eccoci qua alle 13:52 minuti nella nostra consueta finestra aperta sul mondo, assente giustificata, la nostra Giulia Crivelli. Ecco noi Giampaolo Musumeci. Ciao Giampaolo, oggi al telefono. No, in realtà sono qua. Attenzione, qua. Alessia, non mi vedi, ma ci sono. Sono le magie della gestione Covid. Riusciamo a essere vicini, ma distanti, a volte invisibili e vicini. Che esatto, invisibili caso. Perché diciamo che stiamo tutti lavorando molto da casa, il più possibile da casa, quindi sì. Veniamo a orari contingentati. Insomma, stiamo anche noi rispettando quello che assolutamente è il dovuto. Allora, Giampaolo, oggi nella consueta puntata Nessun Luogo è Lontano, alle 16, alle 17, immagino, me lo hai detto, me lo hai anticipato, parlerete di Israele. In Israele perché? Perché oltre a queste immagini molto curiose, molto interessanti di questa protesta che c'è stata nel rispetto del distanziamento sociale, sì. Ci sono anche proprio sviluppi politici importanti. Sì, sviluppi politici importanti perché è accaduto quello che alcuni analisti prevedevano, cioè l'accordo c'è stato tra Benny Gantz e Benjamin Netanyahu. Quindi sostanzialmente c'è un Anshel Pfeffer, che è un editorialista di Haaretz, quotidiano di sinistra israeliano, che ha scritto una biografia molto interessante su Bibi Netanyahu, ed è un editorialista che spesso, diciamo, al posto dell'inchiostro versa vetriolo, no? È molto acuto, a volte anche molto, molto forte. Sostanzialmente dice Benjamin Netanyahu si è assicurato il suo bodyguard, la sua guardia del corpo, riferendosi a Benny Gantz, e poi però ricorda, sì, perché è una grande stampella che Benjamin Netanyahu si è procurato, sapete, deve andare a processo per 3 accuse di corruzione, sì. E d'altra parte si è procurato una stampella, quel Benny Gantz, che solo pochi mesi fa tuonava in pubblico: noi non ci metteremo mai il governo con qualcuno che è indagato. E quindi, come dire, invece è accaduto, ma la politica internazionale, ma anche quella italiana, insomma, a volte ci regala questi colpi di scena, no? più o meno inaspettati. L'immagine a cui facevi riferimento te è importante perché quelle 2000 persone che si sono radunate nelle piazze israeliane, in particolare a Tel Aviv, tenevano la distanza di sicurezza, ma sono volute scendere per protestare proprio contro Benjamin Netanyahu. Non vogliono questa figura, politico di lungo corso al potere, dopo che questi scandali lo hanno travolto. La sua vita politica per il momento è appesa un filo e a quella stampella, appunto, che è Benny Gantz, militare, ex capo di Stato Maggiore, ma politicamente non rodato, non così raffinato come può essere Benjamin Netanyahu, e quindi da qui probabilmente quello scivolone, no? Dicendo mai con Bibi, e 2 mesi dopo ok con Bibi. Insomma, sviluppi interessanti in Israele, oltre a essere, sì, questa immagine di questo, diciamo, rassicurante da un punto di vista proprio di segno di vitalità, no? Perché, sì, ormai le piazze, le strade sono vuote da tempo e loro hanno sfidato il lockdown, anche se non so se Israele ha misure come le nostre, per cui forse da noi si rischierebbe la multa, anzi sicuramente. Hanno certamente misure meno restrittive, però è anche vero che hanno preparato quella piazza in maniera veramente scientifica, sì, sì. Hanno fatto dei segnaposti sul terreno, sì, prima dovevano andare in una piazza più piccola, hanno cambiato la piazza perché fosse più grande, potesse accogliere lo stesso numero di persone, ma con l'adeguato spazio che consente appunto la salvaguardia della propria salute, e tutti coloro che si sono succeduti sul palco devono comunque sempre ricordare mascherina, guanti, disinfettatevi, lavate le mani, eccetera. Quindi è stata anche un'occasione di divulgazione, no, di informazioni sanitarie in qualche modo, ecco. Giampaolo, oggi avete notizie, perché proprio notizie concrete, perché ci sono le condizioni di salute di Kim Jong-un, sì, che bisogna vedere, perché in realtà non ci sono grosse certezze, e poi c'è il rapporto invece di Amnesty International importante sulla pena di morte. Sì, l'annuale rapporto che Amnesty International, questa grossa organizzazione che si batte per i diritti, rilascia e diffonde ogni anno, se dal punto di vista dei numeri globali le pene di morte, le sentenze sono calate nel mondo, vi sono alcuni paesi sui quali ci soffermeremo, in primis la Cina, che però il cui numero è assolutamente non trasparente, come in tante altre cose. Evidentemente il regime di Pechino non fa sapere quante condanne capitali vengono effettuate. C'è il caso iraniano ancora una volta, e c'è il caso saudita, che ha avuto il numero record nel 2019 di sentenze di condanne a morte. La cosa che è inquietante è che molto spesso a farne le spese, da un lato, sono la minoranza sciita del paese, viene usata come leva politica, come strumento di repressione politica, dall'altro sono i teenager, sono i ragazzi adolescenti, molto spesso vengono imprigionati a 13 anni, 14 anni, e pochi anni dopo, prima della maggiorità, addirittura vengono condannati a morte, ed è uno dei grandi temi per cui si batte Amnesty International da parecchio tempo. E su Kim Jong-un hai detto bene, chissà, a proposito di mancanza di trasparenza, no? Devo dire che Cina e Seoul, allora Cina, anzi Cina e Stati Uniti hanno sollevato dubbi, perdonatemi, Stati Uniti hanno superato dubbi sulla, sullo stato di salute. Sì. Si sarebbe operato di 12. Un'operazione chirurgica al cuore. Non è dato sapere bene quali problemi abbia avuto. È sparito dagli schermi, dai radar e da qualsiasi commemorazione ufficiale, nonché quella in onore di suo nonno, che è una commemorazione importantissima per il capostipite della progenie. E, mentre Seul e la Cina... Quindi bizzarra questa cosa, no? Perché sia Seul che Pechino cercano di rassicurare, dalle notizie che hanno non vi sarebbero grossissimi problemi. Staremo a vedere, ripeto, è veramente difficile ottenere fonti da Pyongyang, quindi siamo sempre lì che cerchiamo di scavare in rete per trovare informazioni. Bravi, vi seguiremo, tanti appuntamenti, tante notizie per Nessun Luogo Lontano tra le 16 e le 17, grazie Giampaolo. Anche per questa puntata di Effetto Giorno, Andrea Roccabelle in regia, Laura Faggini in assistenza in diretta oggi, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizio, auguro di una buona giornata, ci sentiamo tra poco.